un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 8 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche virtualmente: euronetplus.eu oppure radio24.it, i nostri siti di riferimento, tanti reportage, tante notizie, tanti approfondimenti anche in tante lingue diverse, e sul nostro sito, nelle pagine dell'Altra Europa, la possibilità di riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra. Oppure i social, chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24 con gli aggiornamenti minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte con un Erasmus molto particolare perché è a casa di Babbo Natale. Il canto della nazione affamata, un poema finlandese composto da Ilmari Chianto, e con queste musiche nordiche diamo il benvenuto a chi il grande nord lo sta conoscendo per motivi di studio. Si chiama Nicoletta Amendolara, viene da Erba in provincia di Como, è una studentessa di 24 anni e sta facendo il suo Erasmus a Rovaniemi, e appunto cittadina famosa per ospitare la casa di Babbo Natale. Ciao Nicoletta. Ciao a tutti. Allora, da dove partiamo? Dalle condizioni atmosferiche, dai, dacci qualche elemento giusto per descrivere in che ambiente ti trovi. Beh, devo dire che oggi si sta molto bene. Ci sono 0 gradi, non sta nevicando e quindi è perfetto. Quindi, rispetto a settimana scorsa dove eravamo 20 gradi sotto zero. Capiamo già anche la difficoltà di andare a lezione a 20 gradi sotto zero, immagino. Sì, decisamente. Nicoletta, cosa ci fai lassù? Come mai hai scelto Rovaniemi per il tuo Erasmus? Allora, per quanto riguarda l'Erasmus, la mia facoltà dava la possibilità di recarsi per la lingua inglese in Bulgaria, in Lituania oppure in Finlandia, e quindi ho scelto bene di andare in Finlandia per esercitare la lingua maggiormente. E tu studi giurisprudenza, se non erro? Sì. Ma ti immaginavi che sarebbe stata una Finlandia così alta, così nordica? Sì, sapevo quello che mi aspettava. Mm-hmm. Ed ero proprio... cioè, non vedevo l'ora comunque di questa sfida, perché non era solo un'esperienza per la lingua o per approfondire i miei studi, ma era proprio un'esperienza di vita, e si è rivelato questo, appunto. Quali sono stati cosa ti porti a casa da questi 3 mesi a Rovaniemi? È stata un'esperienza unica da raccontare, da ricordare. Un'esperienza di vita, prima di tutto, di condivisione. Ho conosciuto un sacco di ragazzi, di ragazze da tutto il mondo. È stata una scoperta e sì, mi rimarrà per sempre nel cuore. Rovaniemi è veramente suggestiva. Si è più vicino o si è più lontani dall'Europa lì? Nel senso che ci si sente un po' al confine del continente, dell'Unione, o invece lo spirito europeo lo hai vissuto? No, penso di averlo vissuto, non mi sento ai limiti. Mm-hmm. Sì, mi sento perfettamente in Europa. E, Nicoletta, ovviamente sarai andata a visitare la casa di Babbo Natale, vero? Certo, più di una volta. Più di una volta? Come mai? Beh, perché ho voluto vedere come sarebbe cambiata, quindi sono andata a settembre, poi di nuovo in ottobre e sono appena ritornata. E devo dire che è cambiata da settembre. Non mi ha fatto una buonissima impressione all'inizio, perché non è altro che un insieme di negozietti tutti uguali, uno accanto all'altro. Certo. Però indubbiamente ora ci sono musiche natalizie, luci, colori, e quindi l'effetto è differente. Sicuramente per un bambino, per una famiglia con un bambino è un paradiso. Sì, insomma, un parco di divertimenti a tema, diciamo, no? Questo è. E hai avuto il modo anche di fare un po' la turista, invece, al di là del turismo ordinario, di immagino vedere zone che forse chi va lì per qualche giorno e salutare Babbo Natale non vede, sono ambienti spettacolari. Sì, esatto, è proprio questo che mi è piaciuto, di non essere stata una turista, ma di potermi essere avvicinata alla cultura e insomma a tutto quello che mi circondava in maniera diretta, conoscendo anche molti ragazzi, molte ragazze finlandesi che mi hanno fatto proprio assaporare quella che è la Finlandia, in particolare la Lapponia, perché non è la stessa cosa. Hai dato esami anche? No, perché io sono qui solo per ricerca materiale per la tesi. Ok. E quindi ho comunque che spero non sia sulla casa di Babbo Natale. No. Ho seguito dei corsi, ma per un interesse personale, per inserirmi di più nella vita universitaria e per conoscere qualcuno. Ho capito. E devo dire che mi piace molto l'università qui e mi dispiace da lasciarla. Ho capito. Grazie davvero per la tua testimonianza, in bocca al lupo per i tuoi studi e buone feste. Ciao, ciao Nicoletta. Grazie mille, grazie a voi, buone feste a tutti. A proposito di Natale, vi voglio ricordare che saremo in onda il 26, anche con l'altra Europa, come sempre, faremo un po' il punto dell'anno appena trascorso, però avrò il piacere di essere con voi anche con tre puntate speciali di Terra in Vista. Giovedì 24, Terra in Vista, la bontà spiegata a mio figlio. Giovedì 31, il nuovo anno spiegato a mio figlio. Mentre la mattina del Natale, il 25 dicembre, alle 9, Terra in Vista, Babbo Natale spiegato a mio figlio. Uno speciale con tante musiche, tante lettere, tante parole legate al Natale. Adesso un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Stage EU Lisa. Sei interessato alle politiche migratorie europee e sei alla ricerca di un'esperienza lavorativa internazionale? L'Agenzia Europea per l'Immigrazione offre stage retribuiti a studenti e laureati nei suoi uffici di Tallinn in Estonia. Nello specifico, gli stage si terranno presso EU LISA, l'Agenzia Europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala che monitorano l'attuazione delle politiche di asilo e gestiscono le frontiere europee. Il candidato avrà il compito di contribuire attivamente alle attività dell'Agenzia volte allo studio delle politiche migratorie in Europa e alle possibili proposte risolutive, in un ambiente giovane, multiculturale, sicuramente prezioso per la sua crescita professionale e personale. Candidature nella sezione Job Opportunities del sito eulisa.europa.e. L'altra Europa. Musiche particolari, strumenti particolari in questa puntata dell'Altra Europa. Quello che abbiamo appena ascoltato non so bene cosa sia, lo chiediamo al nostro esperto. Diamo il benvenuto a Emiliano Licastro, archeomusicologo. Buongiorno Emiliano. Buongiorno. Che cos'era? Era uno dei possibili suoni prodotti da uno degli strumenti che stiamo ricostruendo, che sono strumenti musicali che venivano utilizzati nella antica Europa di cui ci stiamo occupando. Questo infatti è il cuore di un progetto molto bello, molto suggestivo, si chiama HEMAP, European Music Archaeology Project, e l'idea è proprio quella di andare a ritrovare, ricostruire, recuperare antichi strumenti e antichi suoni. Ma quando parliamo di antichi strumenti, ci può dare un'idea? Cioè, stiamo parlando di alcuni strumenti, di decine di strumenti, che entità ha questo progetto? L'entità è abbastanza ampia, vasta, e per questo si tratta di un progetto europeo, perché il quadro è quello dell'Europa. Il periodo va dal Paleolitico superiore, quando appaiono i primi oggetti sonori, sonori utilizzati per fare quella che oggi noi chiamiamo musica e che allora probabilmente era intesa in altro modo, fino a quella che è la tarda antichità. Abbiamo una data convenzionale intorno al 1000 d.C. come data finale del nostro periodo di ricerca, che poi è più o meno quando di solito si inizia la storia della musica nei conservatori, laddove si insegna la storia della musica, la si comincia a insegnare da dove termina invece quello che è il lavoro che stiamo compiendo noi. Certo. In questo caso si tratta di centinaia e centinaia di strumenti costruiti con tutti i materiali possibili da tutte le popolazioni di quella che oggi chiamiamo Europa, e per un periodo più o meno di 40.000 anni. Un viaggio nel tempo, un viaggio nello spazio, tanti paesi coinvolti. C'è stata una tappa molto importante a Viterbo a metà novembre con un convegno scientifico, è appunto uno degli step di questo percorso. So che abbiamo qualche altro file, qualche altro strumento da fare ascoltare. Facciamo prima sentire il suono, poi lei ci dice cos'è, o ci vuole presentare lei un paio di strumenti significativi e andiamo ad ascoltarli insieme? Non so quali abbiate selezionato tra i nostri file, per cui... Allora. Comunque sono tutte registrazioni appunto assolutamente inedite, perché effettuate circa un mese fa per questo nostro progetto, e che nessun altro fino a questo momento ha mai utilizzato, perché la fase di presentazione dei risultati del progetto ancora non è partita, ma di questo magari parliamo fra un attimo. Ok, andiamo a sentire allora questo il Carnix Tintignac, non so neanche pronunciarlo. Tintignac, andiamo ad ascoltarlo insieme. Emiliano, che forma ha lo strumento che stiamo ascoltando? Ho inviato delle foto per avere un'idea di questi curiosi strumenti. È una tromba diritta, lunga circa 2 metri, in bronzo, con la campana terminale dello strumento in foggia di testa di animale, in questo caso una specie di testa di cinghiale con delle orecchie smisurate. Quindi uno strumento decisamente imponente, di tecnologia particolarmente raffinata, e anche dal punto di vista, oltre che visivo, è veramente sorprendente, ma lo è anche dal punto di vista sonoro, timbrico. Certo. Emiliano, ma e chi li sa suonare questi strumenti? Perché c'è ricerca, c'è ricostruzione, però c'è anche utilizzo. Allora, la lunga catena operativa prevede prima che degli studiosi appunto si occupino dei resti di questi materiali. Per esempio il Carnix di Tintignac è uno strumento che è stato ricostruito in base ai frammenti che sono stati ritrovati, per la verità molti frammenti, per cui quasi l'intero strumento, insieme ad altri 5 strumenti, la maggior parte con la campana a testa di cinghiale, uno con uno strumento sempre un paio di metri di lunghezza con una testa di serpente. Tutti questi strumenti erano stati distrutti, defunzionalizzati e depositati in una fossa in un santuario celtico intorno alla metà del primo secolo avanti Cristo. Cioè i Celti, prima di essere occupati dai Romani, hanno deciso di defunzionalizzare e nascondere tutta una serie di oggetti notevoli della loro cultura, quindi elmi, da parata, armi, e anche tutta questa serie di strumenti. Li hanno depositati in una fossa. Nel 2004 un'equipe di archeologi francesi guidata da Christophe Maniquet ha ritrovato tutto ciò. Dallo strumento più completo è stato iniziato uno studio ed è stata fatta una prima copia in ottone, e infine, grazie al progetto EMAP, che si sta occupando della ricostruzione di tutti questi strumenti, è stato fatto finalmente, in base a tutti questi studi e ai rapporti con due artigiani, ma artigiani 75enni con un'esperienza in incredibile. Nel caso del Carnix di Tintignac si tratta di colui che realizza le coppe del Tour de France ogni anno, cioè un vero maestro, certo, della lavorazione del metallo. Tutto questo lavoro ha portato a ricostruire lo strumento. A questo punto è stato affidato all'unico musicista europeo che già in passato aveva suonato un altro Carnix, un Carnix ricostruito sulla base di un esemplare proveniente dalla Scozia, di un frammento proveniente dalla Scozia, l'unico musicista che avesse un'esperienza in questo senso, che da poco tempo ha recuperato lo strumento e ha cominciato a praticare, perché ovviamente oltre a studiarlo, poi ricostruirlo, bisogna anche suonarlo. E per suonarlo uno strumento così particolare richiede un lungo tempo. Ed ecco il motivo per cui questo progetto europeo della durata di 5 anni, giunto adesso al suo giro di boa dopo 2 anni e mezzo, è in arrivo nella fase finale della preparazione, 3 anni di preparazione per preparare una mostra multimediale itinerante per tutta l'Europa con questi strumenti ricostruiti. In questo caso diciamo gli oggetti ricostruiti non sono solo un espediente per far viaggiare delle mostre, come nel caso della famosa mostra di Tutankhamen con, sì, gli oggetti ricostruiti. In questo caso viceversa la ricostruzione degli oggetti non ha soltanto un'utilità per farli viaggiare, ma proprio per poterli ascoltare, perché ovviamente gli originali sono frammentati, non è possibile suonarli perché sono ovviamente fragili e non adatti, in molti casi sono anche poco riconoscibili. Sì, infatti questa è l'unica possibilità, e vi diamo il piacere adesso anche di ascoltare il litus, che è la tromba etrusca se non erro, giusto? Sì, no, il litus viene da un'altra fossa votiva che è stata ritrovata negli anni 80 a Tarquinia, in una fossa che viene definita una fossa votiva di fondazione. Anche in questo caso avevano preso uno scudo, un'ascia e un lituo, cioè una tromba di circa 1,5 metri, sì, con la campana ricurva, li avevano distrutti, defunzionalizzati gli etruschi, e dopo questo rituale fondativo della fondazione della città di Tarquinia avevano seppellito questi oggetti perché non fossero più utilizzati. E tra questi strumenti ancora una volta uno strumento musicale, che evidentemente quindi gli strumenti musicali, specialmente alcuni, erano molto importanti per loro, ed è quantomeno strano che l'archeologia sia arrivata fino ad oggi studiando tutti i generi di oggetti possibili e immaginabili, dedicandosi alla storia dell'arte in tutte le sue forme, ma escludendo regolarmente la musica, che non è solo immateriale in quanto musica, ma è anche ben materiale quando si tratta di reperti di oggetti che vengono ritrovati e anche in contesti molto significativi. Uno strano caso di rimozione. Ascoltiamola insieme qualche nota. www.emaproject.eu, questo è il sito per conoscere nel dettaglio il progetto. Grazie davvero a Emiliano Licastro, archeomusicologo. Ci sentiremo poi prossimamente in occasione della mostra, sicuramente per raccontare il viaggio della musica antica nell'Europa moderna. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie, a presto. Adesso un Europosit e ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europosit. SVE in Romania. Le associazioni Futuro Digitale e Millennium Center promuovono il nuovo progetto Meetings with Languages, offrendo 4 opportunità di servizio volontario europeo in Romania, ad Arad, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere alla popolazione locale attraverso Learning by Doing, strumenti digitali e laboratori. I volontari faranno parte di uno staff internazionale insieme ad altri ragazzi provenienti da Germania, Spagna e Turchia. Insegneranno la propria lingua a 3 diversi gruppi di età, a bambini e ragazzi mediante la manualità e le attività pratiche, a giovani e adulti con metodi di formazione non convenzionale e agli over 50 attraverso l'e-learning. Vitto, alloggio e viaggio saranno rimborsati. Al termine del servizio, il volontario riceverà lo Youth Pass, certificazione europea delle competenze acquisite. Per informazioni e candidature, futurodigitale.org. L'altra Europa. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ripartiamo con questa canzone. Si parla di freedom, si parla di libertà, per presentarvi la piattaforma online lanciata in questi giorni da OBC, Osservatorio Balcani e Caucaso, insieme all'European Center for Press and Media and Freedom, questo centro per la libertà di stampa con sede a Lipsia, inaugurato non da tanto, che però ha già presentato questa piattaforma online, che è uno strumento concreto da mettere in mano agli addetti ai lavori. Ce ne parla Marzia Bona di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Marzia, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, l'avete proprio definito una cassetta degli attrezzi per la libertà dei media. Di cosa si tratta? Sì, l'abbiamo definito così perché è uno strumento estremamente concreto, è uno strumento che consente un accesso rapido e sistematico a informazioni e risorse sulla libertà di stampa e di informazione in Europa. È uno strumento che complementa le altre attività che vengono portate avanti nell'ambito di questo progetto, che mi preme ricordarlo è reso possibile da un finanziamento della Commissione europea e che appunto cerca di radunare, di raccogliere tutte le risorse che vengono prodotte da diversi attori che si occupano quotidianamente di tematiche legate alla libertà dei media e alla libertà di informazione in Europa e di renderle maggiormente accessibili. Quindi si basa sul lavoro di mappatura preliminare degli attori che si occupano di questi temi in Europa, su una selezione delle risorse disponibili e sulla loro catalogazione, in modo tale che gli utenti, e gli utenti che abbiamo pensato per questa piattaforma sono di diverso tipo, e possano fruire dei contenuti che sono di loro interesse attraverso la ricerca per parole chiave, che può essere basata su un'area geografica e così come prima ho sicuramente errato, nel senso che non è uno strumento solo per addetti ai lavori, nel senso giornalisti, ma è uno strumento a cui possono accedere enti, associazioni e gli stessi singoli cittadini, giusto? Esatto, un po' come tutto il progetto, anche questa particolare attività che è stata implementata nell'ambito dello European Center for Press and Media Freedom ha questo doppio approccio. Da una parte si rivolge agli addetti ai lavori, come dicevi tu, quindi ai giornalisti, ma anche ai policy maker che si occupano di tematiche legate alla libertà dei media, ma intende offrire una base di informazione, di conoscenza anche ai cittadini. E questo è un aspetto che ci sta particolarmente a cuore, perché si registra e si nota sempre con maggiore intensità una sorta di disaffezione da parte del grande pubblico, dei cittadini, verso le tematiche che riguardano la libertà di informazione. Da una parte perché riteniamo in qualche modo che il fatto di vivere all'interno di democrazie europee ci tuteli dai rischi della censura o della violenza contro i professionisti dell'informazione, dall'altro perché in qualche modo i cittadini hanno perso la fiducia e la fiducia essenzialmente verso il mondo dell'informazione, e quindi ci sembra molto importante, direi quasi fondamentale, rimettere in luce il link che esiste tra un'informazione indipendente e di qualità e l'esercizio effettivo dei diritti democratici. E per questo è fondamentale dare coscienza e contribuire alla diffusione di un dibattito informato e aggiornato sui rischi che oggi la libertà dei media corre nel continente europeo. Come sempre, tutte le informazioni si possono trovare sul sito balcanicaucaso.org, che è il referente italiano di questo progetto, oppure c'è anche un sito diretto, vero, per questa cassetta degli attrezzi, ce la vuoi ricordare tu? E l'indirizzo specifico della piattaforma è rcmediafreedom.eu. Perfetto. La piattaforma è in lingua inglese perché cerca ovviamente di rivolgersi al pubblico più ampio possibile, ma mi preme precisare che all'interno di questa piattaforma sono curati dei contenuti prodotti anche in lingue altre, quindi ovviamente le lingue dei paesi di cui Osservatorio Balcani e Caucaso si occupa quotidianamente, ma il progetto è in continua espansione, per cui miriamo a coprire tutta l'area del continente europeo. Grazie davvero Marzia, a te e a tutto il tuo team, in bocca al lupo, buon lavoro. A ciao. Voi, buona giornata. Ciao. Europostit. Go Green City. Schneider Electric organizza Go Green in the City 2016, la sesta edizione della competizione tra studenti alla ricerca di soluzioni energetiche intelligenti. Gli studenti da tutto il mondo sono invitati a formare squadre da due e partecipare al concorso. I candidati devono avere almeno 18 anni ed essere studenti di economia o ingegneria. I 12 team finalisti saranno invitati a Parigi a settembre 2016 per presentare le loro idee di innovazione a una giuria e competere per un viaggio intorno al mondo e per un'opportunità di lavoro con Schneider Electric. Si potrà inviare la propria idea a partire da gennaio 2016, ma è già possibile effettuare la preregistrazione e creare la propria squadra. Informazioni sul sito Go Green in the City. Festival delle nuove economie e dei nuovi lavori si sta tenendo in questi giorni a Cerignola, in provincia di Foggia, una 3 giorni proprio dedicata al futuro delle persone, perché alla fine sono le persone, gli attori protagonisti di questa Europa. Uno spazio in cui discutere, promuovere, informare, uno spazio, un evento curato dalle associazioni Resurb, Donne in Rete, associazione 8 marzo, con la collaborazione di del gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo. E tra i tanti incontri ce n'è uno che si è svolto ieri che ci ha particolarmente colpito: Europa, nuove economie, nuovi lavori, incontro organizzato dall'eurodeputato pugliese Elena Gentile, che abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni. Buongiorno Gentile, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, buona giornata per davvero. Qui c'è un sole splendido che incornicia questa iniziativa che sta riscuotendo molta attenzione ed anche successo. Tanti ragazzi, tante ragazze, giovani imprenditori già avviati, ma anche nuove idee per nuovi start-up, insomma si respira un'aria d'Europa, una piccola città del Mezzogiorno che è stata nel suo passato culla delle più importanti battaglie per l'emancipazione delle persone. Mi ricollego a quello che lei diceva introducendo questa telefonata: al centro ci sono le persone, il loro futuro, l'ambizione di tanti ragazzi, di tante ragazze a costruire il proprio progetto di vita non andando via dal sud. Questo è importante. Io resto al sud, diciamo, è il leitmotiv di questa iniziativa, che è sposa in pieno con la nuova filosofia che in Europa sta in qualche maniera contaminando trasversalmente tutti i luoghi di discussione. Economia circolare, economia... No, infatti questo è importante, perché di solito si pensa ai nuovi lavori, qui invece l'accento è anche sulle nuove economie. Ovviamente vanno a braccetto queste due dimensioni, però... Assolutamente sì. Per nuove economie cosa intendiamo? Quali sono le frontiere inesplorate che ci aspettano? Ma è il grande tema della vita delle cose, passare dalla, dalla non cultura dello scarto alla cultura del riuso e dell'allungamento della vita degli oggetti. E questo è un tema che impatta il problema ambientale, impatta, come dire, il consumo di risorse, il riutilizzo di materie prime per una seconda vita. Insomma, c'è dentro questa nostra ambizione il senso di un continente che consuma tanto, produce poco e che oggi deve fare i conti con altre economie molto più aggressive, perché appunto ricche, no, di materie prime. Il tema dell'energia, come decarbonizzare l'Europa garantendo appunto costi energetici compatibili con la competizione dei mercati, e quindi le nuove energie dentro una visione, diciamo, assolutamente moderna e innovativa. Ma parliamo anche di tradizione, la più grande industria d'Italia, ma soprattutto del Mezzogiorno, dell'agricoltura, come oggi l'agricoltura, soprattutto affidata ai giovani imprenditori, possa diventare quell'anello di congiunzione tra il passato ed il futuro. Un'agricoltura a misura d'uomo, meno impattante, che ricorra sempre meno, diciamo, agli agenti chimici e che utilizzi per esempio la posa di caffè come concime azotato, ma diciamo di idee, di esperienze per davvero in questi tre giorni abbiamo raccolto, ecco, molta, diciamo, molta speranza. Ci sono tantissimi ragazzi e tantissime ragazze, imprenditori già consolidati, le associazioni di categoria che stanno, come dire, no, allungando lo sguardo verso questi mondi. C'è il tema dell'economia del mare, il mare vissuto non solo come occasione turistica e di balneazione, ma come grande serbatoio per sviluppare nuove biotecnologie, per, diciamo, il recupero di minerali di cui il sottosuolo ormai si è impoverito, il dialogo con i Balcani dentro, come dire, la suggestione della macro regione ionico-adriatica. Insomma, l'Europa che arriva nei territori accorciando le distanze, e questo è, come dire, no, il primo obiettivo politico che noi ci poniamo, che io mi sono posta appunto raccontando quello che in Europa bolle in pentola. Grazie davvero, elenagentile.io per tutte le informazioni. Fino a domani, se non erro, a Cerignola continua il festival, festival delle nuove economie e dei nuovi lavori, che vuol dire nuovi sguardi, nuovi approcci, nuove creatività per un nuovo futuro. Grazie davvero e buon lavoro. Con lo sguardo rivolto al futuro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Ci fermiamo in Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. No Hate Speech Movement. L'Università per l'Uguaglianza di Genere e il Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa organizzano a Strasburgo un seminario contro l'odio sessista. Obiettivo dell'evento sarà sviluppare una migliore comprensione delle cause, delle forme e dei destinatari dell'odio sessista online e offline, specialmente tra i giovani, e individuare misure per prevenire e affrontare l'odio sessista attraverso la campagna No Hate Speech Movement, strategia sull'uguaglianza di genere del Consiglio d'Europa. Il seminario si terrà presso lo European Youth Center di Strasburgo dal 10 al 12 febbraio. Vitto e alloggio saranno offerti dall'organizzazione. Per iscrizioni cercate No Hate Speech Movement sul sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Abbiamo aperto questa puntata dell'Altra Europa dalla casa di Babbo Natale e la chiudiamo andando a vedere quello che c'è dentro ai sacchi di Babbo Natale, parliamo di doni, parliamo di giocattoli, parliamo di sicurezza, come ogni anno viene rilanciato, sfruttando ovviamente il momento delle feste, l'urgenza, l'importanza di giochi sicuri, di giochi col marchio CE. Ne parliamo con il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che ieri è stato a Roma protagonista di un'iniziativa insieme alla Guardia di Finanza proprio per sensibilizzare questo aspetto. Buongiorno Tajani, ben ritrovata all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, abbiamo anche quest'anno lanciato, come negli anni scorsi, una campagna di sensibilizzazione durante le feste natalizie per invitare i genitori, i nonni, insomma i grandi, a comprare giocattoli che abbiano il marchio CE, perché sono giocattoli sicuri, perché troppi giocattoli contraffatti ci sono in circolazione, in gran parte provenienti dalla Cina, sono giocattoli che sono prodotti con sostanze tossiche, ma non è solo questo, sono giocattoli che vengono prodotti non si sa come, e questo danneggia l'industria dei giocattoli, che è una, soprattutto in Italia, è una delle più grandi d'Europa dopo l'industria tedesca, e si aiuta la malavita organizzata, perché è la malavita organizzata che organizza la vendita dei prodotti contraffatti, e si fa un danno all'erario, perché non rispettando le regole della pressione fiscale, dell'IVA, non si pagano tasse, quindi si finisce per poi far aumentare le tasse ai cittadini in altri settori. Ma la responsabilità va data tutta ai genitori? Queste robe, questi oggetti arrivano nei negozi? Appunto, i genitori non devono comprare questi giocattoli, naturalmente devono chiamare la Guardia di Finanza se si rendono conto che il giocattolo non è marchiato, se il giocattolo non ha le spiegazioni in lingua italiana, basta chiamare il 117 e la Guardia di Finanza interviene. L'altro giorno sono stati sequestrati 400.000 pezzi in un magazzino tenuto da cinesi a Roma. Certo. Bisogna vigilare, ma non basta soltanto il controllo della Guardia di Finanza, servono i controlli da parte dei genitori, che sono i primi a vedere cosa comprano, a sapere cosa comprano. Certo. Detto questo, non bisogna neanche comprare giocattoli non adatti ai bambini, soprattutto quelli più piccoli, e non bisogna regalargli giocattoli che non sono adatti a loro. Infatti sulle confezioni c'è scritto anche per chi sono adatti quei giocattoli, per quale età sono adatti. Certo. Tajani, lei da diversi anni che segue anche appunto queste campagne, è aumentata un po' la consapevolezza? La consapevolezza, no? Dei cittadini non tanto, perché magari si cerca di risparmiare, ma risparmiare sul prodotto contraffatto, ripeto, significa innanzitutto fare un danno alla propria salute, si risparmia poco, ma in realtà si spende di più, perché poi si pagano più tasse se si compra fuori del mercato, si danneggiano le nostre imprese, ma i giocattoli contraffatti sono soltanto una parte dei prodotti taroccati. Pensiamo anche ai farmaci, pensiamo al tessile, pensiamo ai pneumatici delle auto, insomma c'è un grande mercato che è pari a quello della droga. Oggi nel mondo, in questo momento, ci sono circa 600 miliardi di dollari di prodotti contraffatti che sono in circolazione, quindi un grande business che crea meno rischi alla malavita di quanto possa provocare il traffico di droga, perché le sanzioni sono molto meno gravi, però il giro del business è pari a quello del traffico di droga. Italiani, mi hanno appena scritto in diretta, c'è anche questa polemica per questo marchio CE, molto simile al marchio CE dell'export China cinese, export, esatto, China Export. Esatto, bisogna vigilare, il marchio China Export ha la C e la E molto vicini e non garantisce nulla, mentre il marchio CE ha la C e la E più distanti, non si toccano, ma c'è una distanza visibile tra le due lettere. Questo è il marchio che garantisce che la produzione è stata fatta rispettando le regole comunitarie, che sono molto severe, c'è una direttiva per la sicurezza dei giocattoli, ci sono norme anche per la tutela della salute per quanto riguarda i prodotti chimici che possono essere utilizzati in generale, ma anche che possono essere utilizzati per i giocattoli, quindi la norma poi deve essere fatta rispettare dagli stati membri. L'Europa credo abbia fatto in questo caso delle buone leggi, e questo significa che l'Europa è vicina ai cittadini, e noi cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste buone regole. L'Europa a volte è troppo burocratica, ma in questo caso credo che sia un'Europa che risolve i problemi e che aiuta i cittadini a tutelare meglio i propri figli e a combattere meglio la criminalità organizzata. No, assolutamente, però questi due marchi hanno veramente pochi millimetri di differenza, si sta chiedendo un po' tanto ai cittadini. No, si vede, purtroppo il confronto con i cinesi è molto duro in molti settori, ci sono molte misure antidumping nei confronti dei cinesi e adesso ci stiamo battendo perché non venga riconosciuto lo stato di economia di mercato alla Cina, perché questo provocherebbe danni tutto il nostro sistema industriale, e c'è una concorrenza sleale da parte di questo paese e non solo, ecco perché noi dobbiamo reagire, tutelare i nostri prodotti, tutelare la salute dei nostri cittadini e tutelare le nostre industrie. Grazie davvero e buon lavoro, buone feste italiane. Grazie a voi, buon lavoro, auguri a tutti. E con questa ultima chiacchierata con l'onorevole Tajani chiudiamo la puntata dell'Altra Europa. Un grazie come sempre a tutta la squadra, Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Claudia Schiattone in assistenza. Vi ricordo ancora che saremo insieme sabato prossimo 26 dicembre alle 12 come sempre, una puntata speciale, faremo un po' il punto dell'anno passato, faremo una sorta di calendario dell'Europa che è stata, proponendovi foto in radio, foto che commenteremo con tantissime firme autorevoli. Poi saremo insieme anche il sabato successivo, invece il 2 di gennaio, andremo a raccontare l'anno che sta arrivando. Invece con Terra in Vista, tre puntate speciali, ve lo ricordo ancora, legate alle feste. Terra in Vista, La Bontà spiegata a mio figlio, il 24 dicembre alle ore 21. E Terra in Vista, il 2016 spiegata a mio figlio, il 31 dicembre alle 21. Invece il 25 dicembre, Terra in Vista, Il Natale spiegata a mio figlio, alle 9 di mattina, per svegliarci, aprire insieme i pacchi, i regali, i doni che troveremo sotto l'albero con tante musiche, tante parole, tante filastrocche. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.